Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17 e 7 minuti. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Le cose sono due: o le aspettative dei mercati rispetto a quello che avrebbe fatto il presidente della Banca Centrale Europea, il direttivo della Banca Centrale Europea, erano troppo alte, oppure il presidente della BCE, Mario Draghi, quando ha parlato da Londra e ancora prima in un'intervista a Le Monde, dicendo che la banca avrebbe fatto di tutto per salvare l'euro nell'ambito del proprio mandato, non aveva ancora in mano tutti gli elementi concreti, a partire dalla posizione della Bundesbank in merito all'acquisto di titoli di Stato per alleggerire lo spread. Fatto sta che le aspettative dei mercati fossero esagerate oppure no, fatto sta che c'erano. E quindi nel momento nel quale oggi Draghi ha tenuto la conferenza stampa, i mercati hanno iniziato a scendere, e anche pesantemente. In questo momento Milano cede il 3,6% sul FTSE MIB, il 3,28% sul FTSE All Share. Negative sono anche le altre piazze finanziarie europee: Francoforte perde 2 punti percentuali, Parigi perde altrettanto 2 punti percentuali, negativa è anche l'America con il Dow Jones che cede lo 0,6%, è il consueto bagno di sangue per quanto riguarda le banche, con la Popolare di Milano che cede l'8,7%, la Popolare Emilia Romagna l'8,6%. Mediobanca l'8,3%, UbiBanca il 7,7%, Intesa San Paolo il 7,5%, il Banco Popolare il 7,2%, Monte dei Paschi il 6,5%, Unicredit il 5,9%. L'euro che era arrivato a superare quota 1,23 a 1,2142 contro dollaro. E per quanto riguarda i titoli di Stato, anche qua le notizie non sono buone. Lo spread è ritornato sopra quota 500 punti, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è tornato sopra i 500 punti e poi ha ritracciato, è a 498 in questo momento, e il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni è arrivato sopra ampiamente sopra il 6%, il 6,22%, mentre invece si è visto qualche segnale di rallentamento per quanto riguarda i titoli più a breve, che è comunque un elemento importante, attenzione, anche perché Draghi ha parlato abbastanza esplicitamente della possibilità di acquisto di titoli di Stato, e però di titoli di Stato a breve, appunto. Naturalmente questo sarà il nostro primo tema di approfondimento, dopo averne tanto parlato sulle aspettative, in particolare nella settimana scorsa. Ne parleremo con il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, per cercare anche di leggere dietro le parole di Draghi e dietro le decisioni della Banca Centrale Europea. E ne parleremo anche con due operatori di mercato per capire proprio questo, insomma, perché questo che ci interessa, la reazione del mercato, quale potrebbe essere anche la reazione del mercato nei prossimi giorni, cosa si attendono da Draghi. Parleremo della vicenda Mediobanca. Come sapete, ieri è arrivata la notizia, Mediobanca Fonsai, in realtà è arrivata la notizia che Alberto Nagel, l'amministratore delegato, è indagato nell'ambito della vicenda Fonsai. Al centro c'è un promemoria da lui firmato con le richieste della famiglia Ligresti per chiudere la vicenda Fonsai, una sorta di liquidazione per i Ligresti, foglio firmato, e che però sostiene Nagel è una firma come presa d'atto e non come accordo, appunto, tra lui e Ionella Ligresti. E poi andremo anche all'Ilva di Taranto, o meglio a Taranto, dove oggi c'è stata la manifestazione per l'Ilva. Prima di tutto, come sempre, le notizie in breve di oggi. L'8 L'oro in rialzo a 1601 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio invece abbiamo il WTI, quello quotato a New York, in lieve rialzo, scusate, dello 0,02%, 88,9 dollari al barile, e altrettanto fa il Brent, 105,9 dollari al barile. Dal lato della crisi, Standard & Poor's ha confermato la tripla A per la Germania, con un outlook, ossia una visione sulle prospettive di rating stabile. Secondo l'agenzia, il paese ha un'alta diversificazione, competitività dell'economia in grado di assorbire shock economico-finanziari. Che dire, ce ne eravamo accorti. Conferma Standard & Poor's anche il rating sul Portogallo, una tripla B, le prospettive restano negative. Nel frattempo oggi la Spagna ha venduto titoli di Stato per 3,13 miliardi di euro a 2, 4 e 10 anni. Per darvi un'idea di come sono i rendimenti oggi per quanto riguarda i titoli spagnoli, sono tornati sopra il 7%, al 7,13 per essere esatti. Vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi di Deutsche Bank, che aveva aumentato la sua esposizione verso l'Italia. Arriva notizia diversa invece da BNP Paribas, gruppo francese, ha ulteriormente ridotto la propria esposizione da 12,3 a 11,5 miliardi di euro, insomma 800 milioni in meno. Ci sono anche dati dall'Italia oggi, iniziamo da quelli di Confcommercio. Il ribasso dei consumi delle famiglie previsto dalla Confcommercio per il 2012, pari al 2,8%, rappresenta la caduta più forte almeno dal dopoguerra. Per trovare un calo peggiore bisogna tornare agli anni 30. La storia recente, dice sempre Confcommercio, ci dice che il reddito reale pro capite degli italiani è calato di 1.800 euro tra il 2002 e il 2012, un meno 10% circa reale a testa. Poi ci sono le previsioni di Confcommercio: nel 2012 PIL in calo del 2,2%, nel 2013 dello 0,3%. E sempre secondo l'associazione che raccoglie i commercianti, nel 2012 scompariranno 20.000 negozi, proprio così, scompariranno, cioè non sono solo quelli che chiuderanno, ma esattamente il saldo negativo, quello tra aperture e chiusure. Aggiungono, ma forse la stima è ottimistica. Dati anche dall'INPS, aumentano le domande di disoccupazione. A giugno ne sono state presentate 92.000, con un aumento del 4,7% rispetto al giugno del 2012. Sono in calo invece le domande di mobilità presentate, quando sono state 7.693, un calo del 5,7%. Il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, commenta, se vogliamo è quasi una banalità, il sistema produttivo mostra ancora forti segni di debolezza. A proposito di sistema produttivo, c'è la vicenda dell'Ilva, mattinata intensa, e migliaia hanno preso parte al corteo dei sindacati contro la chiusura dello stabilimento. Un gruppo di contestatori dei Cobas ha fatto incursione col lancio di uova e fumogeni. Il comizio è stato sospeso per poi riprendere. Dice la segretaria della CGIL Camusso, l'azione è ingiusta, è illegittima. Di questo tratteremo più avanti. Noi veniamo al primo tema di questa giornata, che è appunto la Banca Centrale Europea. Allora, la Banca Centrale, lo avete sentito anche poco fa nel nostro giornale radio, ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sui depositi presso la BCE rimarranno invariati: 0,75%, 1,5% e 0%, quello sui depositi. Ma naturalmente le grandi attese erano per le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, dalle quali si sperava di tirare un po' di fiato. Così non è stato, quantomeno sui mercati. Saluto Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore, corrispondente a Francoforte. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera. Intanto Milano perde il 4% sul FTSE MIB, il 3,5% sul FTSE All Share, una discesa iniziata alle 14.35 più o meno, quando ha iniziato a parlare Draghi, e che ancora non si è arrestata, un qualche sbalzo con un po' di volatilità, ma una discesa che ancora non si è arrestata. Allora, iniziamo però, come sempre, a sentire qualche parola del presidente della Banca Centrale Europea. Dice Draghi: gli spread così alti sono, gli spread sono eccezionalmente alti e così sono inaccettabili. Ha ribadito la sua posizione secondo la quale l'euro è irreversibile e dice bisogna attivare IFSF e ISM, che sono i due fondi salvastati, se necessario. Sentiamo. Exceptionally high risk premium. Sono stati osservati premi per il rischio eccezionalmente elevati nei prezzi dei titoli di Stato di diversi paesi e la frammentazione finanziaria ostacola un funzionamento efficace della politica monetaria. La parte di premio di rischio legata ai timori sulla reversibilità dell'euro è inaccettabile e deve essere affrontata in modo fondamentale. L'euro è infatti irreversibile. Al fine di creare le condizioni che avviino una riduzione di questi premi a rischio, i responsabili delle politiche nella zona euro devono portare avanti con determinazione il risanamento dei bilanci, le riforme strutturali, oltre ad agire con grande determinazione per il rafforzamento delle istituzioni europee. Poiché l'attuazione di queste misure richiede tempo e i mercati finanziari reagiscono spesso solo di fronte a risultati tangibili, i governi devono essere in ogni caso pronti ad attivare i fondi IFSF-ISM, qualora le condizioni lo rendano necessario. Così Draghi. Io intanto saluto anche gli altri nostri due ospiti, sono Roberto Malnati, gestore di fondi di Global Opportunity Investment, buonasera. Grazie, buon pomeriggio. Che si occupa, tra l'altro, quanto mai prezioso, perché ha una specializzazione sulla volatilità, ci diceva prima della trasmissione. Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR, buonasera anche a lei. Buonasera a voi. Allora, sentiamo anche il presidente della BCE, dice la banca centrale è pronta a intervenire sui mercati e pronti a nuove misure non standard. The governing council, within its mandate to maintain price stability over the medium term. Il consiglio direttivo, nell'ambito del suo mandato di mantenere la stabilità dei prezzi nel medio termine e nel rispetto della sua indipendenza sulle scelte di politica monetaria, potrebbe fare interventi diretti sui mercati nelle prossime settimane di dimensioni adeguate al raggiungimento dei suoi obiettivi. Il Consiglio direttivo può anche prendere in considerazione di intraprendere ulteriori misure di politica monetaria non convenzionali per affrontare la situazione sui mercati. Nelle prossime settimane metteremo a punto le modalità adeguate per tali misure. Allora, la battuta che ci mandate via SMS al 349-238-6666 non è male, perché ci chiedete se era Draghi o Weidmann, che è il governatore, il presidente della Banca Centrale Tedesca, della Bundesbank. Allora inizierei con Alessandro Merli del Sole 24 Ore. La mia impressione è, magari mi sbaglierò, è che ci sia un po' più di sostanza di quanto non si veda ad una prima lettura. Alessandro. Ma credo che ci siano molte cose, soprattutto nello statement iniziale di Draghi, di cui avete riportato alcune parti. In effetti Draghi lì ha detto delle cose che tendono a corroborare quell'affermazione molto forte che lui ha fatto la settimana scorsa a Londra: faremo tutto quello che è necessario per salvare l'euro. Ha detto che questi tassi, questi spread sono inaccettabili, ha detto che la banca centrale agirà, ha detto, cosa che ci si aspettava, bastava leggere il Sole 24 Ore in questi giorni, che la Banca Centrale agirà, ma nel momento in cui i governi lo chiederanno e in cui metteranno in movimento anche i fondi salvastati, gli FSF e ISM, diciamo che in tutto questo non c'è niente che non ci si potesse aspettare e va in una direzione giusta. Ha detto anche che la BCE sostanzialmente è disponibile, se necessario, ad accettare delle perdite su queste operazioni, cosa che non aveva fatto nel caso della Grecia. Ecco, che aveva Alessandro, spieghiamo, questo è importante, Alessandro, spieghiamo, questo è importante perché questo vuol dire che rinuncia a una sorta di status di creditore privilegiato, questo è, questa è la sostanza? Esattamente questo, non ha detto che rinuncia, però ha detto che considereranno questa cosa. E questo è importante perché? Perché nel momento in cui la Banca Centrale Europea è intervenuta sui titoli greci e quando c'è stata la ristrutturazione del debito greco, la Banca Centrale Europea non ha aderito a questa operazione, chiaramente gli investitori privati hanno poi dovuto sopportare delle perdite molto più forti di quelle che se tutti i creditori avessero aderito. A questo punto ogni intervento successivo della BCE fa sorgere il dubbio negli investitori: se ci sarà un'altra ristrutturazione sarò io di nuovo a pagarne il conto. E quindi il rischio è di avere un effetto boomerang, in sostanza, per cui la BCE interviene, compra titoli di Stato e però tutti gli altri scappano perché temono appunto di finire in seconda fila in caso di default o di ristrutturazione. Esatto, invece ha detto noi siamo disposti a riconsiderare questa posizione nel caso dei futuri acquisti che faremo. Poi ha detto che ci vorranno ci sono altre misure che verranno prese in considerazione. Il problema poi è insorto soprattutto nel domanda e risposta, quando Draghi ha dato l'impressione che tutto fosse un po' vago, cioè ha creato delle incertezze su quello che aveva già affermato, ha parlato di un tempo di alcune settimane, di comitati che dovranno studiare le modalità di questi interventi, insomma che la BCE non fosse poi ancora pronta a intervenire nel momento in cui ce ne fosse la necessità. Draghi ha detto giustamente, ma è inutile essere pronti oggi quando ancora i governi sono indietro, nessuno ha fatto richiesta dei fondi, eccetera. Però probabilmente i mercati si aspettavano una BCE più aggressiva, con un senso di urgenza più forte, più aggressiva. Alessandro, detto ciò, dal lato del possibile intervento sull'acquisto di titoli di Stato, mi sembra che sia passata in pieno la linea della Bundesbank, cioè se vuoi che ti compri titoli di Stato per placare lo spread, per così dire, per tenere un po' più bassi i rendimenti e quindi insomma non farti pagare interessi così alti, devi comunque chiedere aiuto e sottostare a determinate condizioni, il che vuol dire, insomma, non dico proprio fare come ha fatto la Grecia, ma ci andiamo molto vicini. Questa non è la linea della Bundesbank, è la linea della Bundesbank sarebbe non avere assolutamente alcun tipo di acquisto di titoli da parte della BCE. Questa è la linea che è uscita dal vertice europeo di fine giugno, cioè di autorizzare questi interventi, ma a patto che i paesi si impegnino a fare qualcosa. Perché si è scelta questa via? Perché la BCE è stata scottata l'anno scorso dall'esempio di fine luglio, inizio agosto, quando ha fatto per conto suo gli acquisti di titoli italiani e spagnoli e questo ha un po' normalizzato il mercato e però ha dato anche la possibilità ai governi italiani e spagnoli di fare marcia indietro su alcune promesse che avevano fatto in termini di aggiustamento del bilancio e riforme strutturali. A questo punto si dice vabbè, noi facciamo gli acquisti, però vogliamo avere la garanzia che questo non ferma tutto dal punto di vista di quello che invece devono fare i governi. Quindi in un certo senso Draghi ha rilanciato la palla nel campo dei governi, però diciamo questa era la linea che era emersa già dal vertice europeo di fine giugno. Come dico, la linea della Bundesbank sarebbe molto più estrema, cioè la BCE non deve fare acquisti di titoli, punto e fine. Tanto è vero che poi Draghi ha ammesso in conferenza stampa che la linea che è uscita dal Consiglio di oggi è stata approvata da tutti, meno che da Weidmann, cioè dal Presidente della Bundesbank. Che si è astenuto, però è forse già un buon segnale che ci sia stato il sì di tutti i cosiddetti falchi, mettiamola così, Finlandia compresa. Diciamo che da questo punto di vista probabilmente il lavoro diplomatico di di Draghi ha funzionato, nel senso che in un certo senso la Bundesbank resta isolata in questa posizione, anche se è un isolamento che è scomodo per la Bundesbank, ma è scomodo anche per la BCE evidentemente, sì, perché la Bundesbank bene o male resta suo principale azionista e rappresentante dell'economia più importante dell'area dell'euro, quindi diciamo che questa posizione è scomoda per entrambi e Draghi ha cercato di evitarla fino all'ultimo. Però non c'è dubbio che, adesso tornando al discorso della reazione dei mercati, che Draghi abbia poi indotto chi ascoltava a una serie di dubbi e di incertezze con le sue risposte alle domande che gli abbiamo fatto noi giornalisti in conferenza stampa, e questo poi credo che sia stato quello che ha determinato l'umore dei mercati. Cioè lo statement iniziale probabilmente era abbastanza forte, come dicevi tu, aveva anche degli elementi di sostanza notevoli, ma poi Draghi ha un po' distillato dei dubbi nella mente degli operatori, dicendo ma forse questa cosa poi non è pronta, ci vorrà tempo. In parte ha ammorbidito le cose. Grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore da Francoforte per essere stato con noi. Buonasera Alessandro. E noi passiamo ai gestori che ci hanno ascoltato in linea. Non l'abbiamo fatti attendere a caso, ma per fargli sentire anche che cosa aveva da dire il nostro collega da Francoforte. Dunque, diciamo, con Roberto Malnati, gestore di fondi Global Opportunity Investment, Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR. Inizierei proprio da Fiorini e le chiederei, Fiorini, insomma, non è che la stessa domanda che ho fatto a Merli, non è che c'è ancora un po' una lettura superficiale delle parole di Draghi e forse anche una componente del famoso sell on news, cioè compra sulle aspettative e vendi quando arriva la notizia? Beh, direi che probabilmente abbiamo avuto oggi la sintesi di quello che è un braccio di ferro che dura da mesi. Da un lato i mercati che sono palesemente contro il progetto euro, e ogni qualvolta è possibile cogliere un elemento di debolezza, questo viene esasperato e viene automaticamente accantonato ogni elemento di positività. Nel discorso di Draghi, secondo me, oggi c'era tanta sostanza, ha compiuto un paio di errori. La sostanza principale è che ancora una volta si fa un passo nella direzione giusta, cioè la Banca Centrale Europea è pronta ad affiancare le istituzioni politiche per risolvere la questione. La questione sta diventando grave e sapere che chi è preposto a proteggerti ha capito il problema ed è pronto a difenderti penso sia un elemento molto importante per i mercati. E invece che apprezzare questo aspetto, i mercati hanno guardato quello temporale. Pensare di legare l'intervento della Banca Centrale alla richiesta di un aiuto o a un intervento dell'FSF vuol dire che forse ci possono volere 7, 14, 21, 28 giorni e il mercato 28 giorni non li vuole aspettare. Quindi questo è il nodo, non continuare a dare privilegio al tempo anziché alla sostanza delle cose, quando ormai siamo entrati nel terreno della sostanza. E qui c'è lo snodo. Lui ha fatto due errori di quindi, base. Quindi è colpa vostra, Fiorini? No, purtroppo io penso che sia una colpa degli stranieri. Io penso che gli italiani, il loro dovere, ma forse anche gli spagnoli e parte degli investitori europei abbiano fatto il loro dovere. Hanno comprato, hanno tenuto, non si sono fatti spaventare, però a un certo punto non è che può continuare a comprare o ha soldi all'infinito. Gli unici che hanno soldi all'infinito sono le banche centrali. Quando ti trovi che tutto il mondo vende e tu non è che hai la stessa capienza, essendo un decimo di quello che è la portata del resto del mondo a comprare tutto, e quando tu hai comprato e hai perdite, non è che il giorno dopo riprendi a comprare, perché devi ancora smaltire le perdite il giorno prima. Quindi è qui la necessità di avere una banca centrale che ti supporta. Ovvio. Perché abbiamo tutti che escono nello stesso momento, quando dall'altra parte pronti a riceverli ci sono in pochi. Questa è la sostanza. Roberto Malnati, valutazione? No, sono due i punti che io ho individuato oggi, che mi sono piaciuti. Il primo è sul meccanismo europeo di stabilità, cioè l'ESM non è una controparte BCE e con oggi è chiaro. Cioè, quindi il discorso licenza bancaria sì, licenza bancaria no, diventa secondario. È defunto. No, cioè con lo statuto attuale l'ESM non è comunque controparte della BCE. No, e ci siamo tolti questo problema. Il secondo invece l'ho letto tra le righe, quando parla di premio a rischio per la reversibilità dell'euro, perché non ha parlato di spread, ha parlato di premio a rischio. Allora, il premio a rischio è un argomento sottile ma insidioso. Cioè il mercato oggi si muove risk on, risk off, indipendentemente dagli asset. Quindi si libera di tutti gli asset che vengono identificati come risk on, che vanno dalle materie prime, oil, indipendentemente dalla situazione politica, da quelli che sono i flussi, da quelli che sono le riserve di petrolio. Cioè lì si vende petrolio ai mercati e si compra Bund tedesco, che è chiaramente identificato come risk off. Allora, quando Draghi dice che è inaccettabile questo premio a rischio come scommessa sulla reversibilità dell'euro, ha ragione. Cioè, in questo momento il mercato si sta comportando in una maniera assolutamente avulsa dalla realtà, cioè quindi è disposto a pagare dei premi altissimi a fronte di un rischio che non è nemmeno incluso tra i pagamenti di quei premi. Faccio un esempio banale, se vogliamo. Chi si riempie di Schatz, cioè quindi di titoli di Stato tedeschi a 2 anni o a 5, uno a rendimento negativo, gli altri con un rendimento risibile, scommette sul crollo dell'euro e sul fatto che i tedeschi, con il loro debito denominato in euro, improvvisamente decideranno di convertire il loro debito in marchi, e così chi si sta comprando quel debito lì si arricchirà. Ecco, questa è un'idiozia. Le 17:36 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR. Non mi sembra che l'assenza di aste possa ridurre il rischio, insomma, che gli investitori lavorino pesantemente sui nostri BTP, per così dire. Esattamente, perché purtroppo su quello è una parte dell'equazione. L'offerta esogena rappresentata dalle aste non ci sarà, e questo è un buon segnale da parte del Tesoro. Purtroppo il rischio è che in assenza di notizie ci sia una offerta endogena, cioè di chi ha già i BTP o di chi li vuole shortare, quindi gli stranieri che hanno fatto questo per mesi, stanno continuando a farlo, siamo ai massimi in termini di short da parte degli investitori speculativi, loro potrebbero continuare, quindi ci troveremo con una offerta di titoli che, se non è dal Tesoro, viene dall'interno del mercato stesso, e dall'altra parte rischiamo di non avere una domanda endogena, cioè da parte degli investitori che, come dicevo, sono già, quelli europei in particolare, già pieni di BTP, non parliamo di quelli italiani, quindi servirebbe qualcun altro. E qui occorre una domanda esogena, che è quella della Banca Centrale, che oggi purtroppo non ha trovato una risposta chiara in Draghi, e quindi ci troviamo con due attori, quelli determinanti, che rischiano di essere presenti sul lato vendita e non presenti sul lato acquisto. Malnati, che agosto vede? Un agosto a rischio a questo punto, se non ci sarà la mano della BCE? Io, per quanto riguarda le operazioni che faccio, sono strutturalmente un venditore di assicurazioni a rischio, quindi io è da gennaio che continuo a vendere derivati che proteggono gli altri da un rischio che non è ancora arrivato. E questa è una delle attività più lucrose che si possono fare in questo momento, perché il premio è vicino al 0,5% giornaliero che incassi vendendo protezione a rischio agli altri. Per quanto riguarda il BTP o comunque i titoli di debito italiani, il massimo rischio che il mercato prezza è a 5 anni, dove lo spread è addirittura superiore a quello del 10 anni. In questo momento è a 512 contro lo spread a 10 anni che ha superato poco fa i 500 e 506 adesso. Quindi in termini di rischio, considerato che, per quanto mi riguarda, l'idea che un titolo a 10 anni sia meno rischioso di un titolo a 5, perché tutta la parte che abbiamo visto di attività che vanno a fare un haircut su titoli a breve, che più altro di quelle a lungo, mi lascia perplesso. Devo dire che offrono le migliori occasioni, quindi per chi può, per chi ha ancora capacità, i titoli che vanno da 3 a 5 anni sono quelli che in questo momento offrono un rendimento assolutamente interessante. Quindi la sostanza, soprattutto la prima parte della risposta, che mi dice che questo agosto rischia di essere comunque ancora di tensione per quanto riguarda, salvo che appunto non ci metta... Sia per quanto riguarda l'obbligazionario che per quanto riguarda l'azionario sono ancora altissimi. Altissimi. Grazie. Malati, la devo interrompere perché insomma, abbiamo anche altri argomenti. Grazie a Roberto Malnati, gestore fondi Global Opportunity Investment, e Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR. Grazie a tutti e due. Nel frattempo sta parlando il Presidente del Consiglio, Mario Monti, che... dal quale ci sembra di arrivare una dichiarazione un po' più morbida sulle richieste di aiuto. Non so se chiederemo scudo antispread, ma andremo avanti con il rigore. La nostra finanza pubblica è solida e comunque non c'è nessun bisogno di salvataggio. Dice: non vedo passi indietro nelle parole di Draghi, ma c'è continuità. E veniamo alla borsa. Ciao Condina, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Poco da dirci sul mercato in generale, una chiusura con un calo del 4,6% sul FTSE MIB e del 4,2% sul FTSE OCER. Abbiamo parlato fino adesso con due operatori di mercato, lo scenario ci sembra chiaro, insomma, poca visibilità appunto, soprattutto a breve termine da parte dei mercati e insomma, forse anche un po' di confusione. Secondo quel che abbiamo sentito come valutazione nelle parole di Draghi, e giù tutte le banche come sempre. Assolutamente, segnaliamo che Milano e Madrid, insomma, gli listini periferici sono poi quelli che hanno subito di più l'impatto di quelle che sono state oggi le parole del governatore della Banca Centrale Europea. Milano, come dicevi, ha perso il 4,6%, Madrid quasi il 5%, perdite, insomma, diciamo all'incirca la metà, sia per Parigi che per Francoforte, che perdono rispettivamente il 2,6% e il 2,2%. Chiaramente, insomma, quello che ha detto Draghi, il fatto che un intervento della BCE potrebbe non essere immediato, come aveva lasciato intendere una settimana fa, innescando poi un rally piuttosto consistente dei listini che salivano praticamente da 5 sedute, insomma, ha causato una pioggia di vendite importante. Se si considera che praticamente tutte le principali banche hanno perso più del 9%. Sì, Popolare Emilia Romagna meno 9,8, Popolare di Milano meno 9,6, Intesa San Paolo meno 9,6, Ubibanca meno 9,2, Banco Popolare meno 8,8, Monte dei Paschi meno 8, Unicredit meno 7,3%, anche Mediobanca meno 9,3. Qua poi insomma, un tema che toccheremo proprio, finito lo spazio sui mercati, c'è l'indagine su Nagel, immagino che pesi anche quella, no? Beh, sicuramente sì, anche perché prima dell'intervento di Draghi Mediobanca aveva aperto a meno 4%. Sì, quindi c'è anche quella componente. E giù anche le utilities, i titoli energetici, vedo un Enel Green Power che scende del 7,3 a 2A del 9,06%. Sì, qui c'è attesa anche per quella che sarà la semestrale di Enel, che sarà diffusa a breve, ma comunque è inutile nascondersi che il momento per le utility è molto difficile, la domanda di energia elettrica in Italia e anche in Europa, ma soprattutto in Italia, è in calo perché le imprese non ne consumano, perché la recessione si fa sentire e quindi i margini sono in calo. Poi c'è il caso anche di A2A, che ieri aveva diffuso una semestrale piuttosto brillante anche dal punto di vista dell'indebitamento, ieri aveva guadagnato, oggi invece insomma le vendite sono state veramente generalizzate, è arrivata a perdere il 9%. A questo punto il titolo è nuovamente sui minimi storici. Ci chiedete dello spread, il rendimento tra titoli di Stato, cioè la differenza tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 512 punti, e il rendimento dei BTP a 10 anni al 6,35%. Generali. E generali è un altro caso di come il mercato oggi abbia sostanzialmente ignorato quelli che sono, diciamo, se non i fondamentali, quelle che erano le notizie del giorno di ieri, perché generali ha comunque mostrato ieri una semestrale importante in cui comunque i conti hanno dimostrato una tenuta. Oggi poi c'è stata la conference call in cui il direttore finanziario Agrusti ha smentito l'ipotesi nuovamente di un aumento di capitale, insomma c'erano tutte le prerogative per un balzo del titolo, che in effetti c'era stato, perché stamattina guadagnava quasi il 2%. Poi dopo le parole di Draghi, insomma, una pioggia di vendite, meno 6,4%. Come tutti i finanziari, Mediolanum giù tra l'altro del 6,5%. E lo stesso discorso di generale lo possiamo fare per Telecom Italia, forse, almeno in parte, meno 6,7%. Sì, qui c'è stato anche un utile di 1,2 miliardi. Bernabé ha fondamentalmente detto che questi numeri, quelli del primo semestre, consentono di confermare i target sui dividendi, quindi insomma erano arrivati messaggi di tranquillità per il mercato, ma poi diciamo la tempesta innescata da Draghi non ha guardato in faccia nessuno. Positivi solamente due titoli e sono Salvatore Ferragamo più 0,88%, ma ha fatto bene tutto il lusso oggi? No, in realtà no, perché Tozza ha perso il 2,3%. Sì, comunque meglio del, insomma, sì, meglio del benchmark. visto il quadro complessivo, senza dubbio. E Tenaris un più 0,19%, ci sono motivi particolari da questo lato? No, non particolari. Si segnala più la tenuta, insomma, del Salvatore Ferragamo fa più 0,88, poi c'è anche Luxottica, che lusso non è, però comunque insomma da un certo tipo di prodotti fa meno 1,8%, poi anche Campari meno 2%, sono tutti titoli che in giornate insomma nere come questa rappresentano un approdo insomma tranquillizzante. Ci chiedete, tra le altre cose, se la licenza bancaria, cosiddetta licenza bancaria, l'ISM, ossia il Fondo Salva Stati Permanente, definitivamente tramontata. Beh, insomma, le parole di Draghi da questo punto di vista sono state abbastanza nette. Sì, l'ipotesi sembra definitivamente tramontata. Tenete presente che era un'ipotesi che serviva semplicemente a dare maggiore operatività e rapidità al Fondo Salva Stati, in maniera che si potesse finanziare direttamente presso la BCE. Ci chiedete perché la reazione dei mercati alla dichiarazione di Draghi, cosa ha detto di devastante, ce lo chiede Serafino al 349-238-6666. In realtà non ha detto niente di devastante, c'è stata forse un po' di confusione, ci riferiva poco fa Alessandro Merli da Francoforte, tra lo statement iniziale, ossia la dichiarazione iniziale, e poi le precisazioni arrivate successivamente con le domande dei giornalisti, soprattutto sul tema della rapidità di azione da parte della Banca Centrale Europea, perché si è parlato di settimane, probabilmente i mercati volevano in pasto qualcosa subito. Veniamo però adesso a parlare di Mediobanca. O meglio, di Mediobanca, di tutto quello che incrocia la vicenda Premafine e Fonsai, della quale tante volte abbiamo trattato da questi microfoni. Anche perché, insomma, mette in luce alcune delle contraddizioni del sistema italiano. Nella fattispecie parliamo dell'inchiesta giudiziaria, perché ieri in tarda serata è arrivata la notizia dell'indagine su Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, per ostacolo all'attività di vigilanza nell'ambito dell'inchiesta del PM Luigi Orsi, appunto, su Premafin e Fonsai. Al centro di tutto c'è un foglietto scritto di suo pugno da Ionella Ligresti. Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore, il collega che in procura, in tribunale, si sta occupando di questa vicenda in questi giorni. Angelo, buonasera. Buonasera. Allora, cosa c'è su questo foglietto? Questa storia del foglietto è un giallo veramente divertente. È un foglietto scritto a mano, come dicevi tu, da Ionella Ligresti, figlia di Salvatore Ligresti, e un foglio a quadretti scritto fronte retro, che alla fine reca le sigle di Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, e quella di Salvatore Ligresti. Cosa c'è scritto? Ci sono scritte tutta una serie di cose, c'è una serie di garanzie che i Ligresti pretendevano da Mediobanca, ma anche da tutti gli altri attori di questa partita difficilissima che ha portato poi alla creazione di Unipol Fonsai. Sostanzialmente i Ligresti pretendevano 45 milioni di euro di buonuscita in cambio del 30% di azioni Premafin. Questa, diciamo, è la parte più corposa di questo pacchetto. Ma ci sono poi... poi c'è la parte in natura anche. C'è una parte in natura che è veramente divertente, perché Tra questi benefit, possiamo chiamarli così, che i ligresti chiedevano, c'erano per esempio un autista, cioè la disponibilità di un autista, soggiorni gratis a vita al Tanca Village in Sardegna, un resort dove loro erano abituati a trascorrere le vacanze, e poi incarichi e garanzie per posti di lavoro per i tre figli di Salvatore in Italia e all'estero. Posti di lavoro, quindi addirittura posti di lavoro. La certezza di aver garantito un posto di lavoro. E va bene, e su questo naturalmente è entrata la procura, perché su quel foglio c'è la sigla di Nagel. Qual è la versione di Mediobanca, Angelo? La versione di Mediobanca, di Nagel, dovremmo dire, ed è quella che lui ha esposto ieri in questo lunghissimo interrogatorio che è durato 6 ore, è che quella non è una firma di un patto, di un accordo segreto che sarebbe stato tenuto nascosto alla Consob. Quindi non è un patto parasociale come sostiene la procura, ma è soltanto la sigla di una presa d'atto di alcune richieste dei ligresti che si ritenevano, come dire, maltrattati da tutti gli altri protagonisti della vicenda. E chiedevano quindi queste garanzie. Chiedevano a Nagel di intercedere per l'apertura di un tavolo con Unipol, perché Unipol potesse appunto dare ai ligresti le cose che chiedevano. Questo è un altro nodo importante, perché queste garanzie naturalmente non le poteva dare Mediobanca, ma le doveva dare Unipol. Non le poteva dare Mediobanca, le doveva dare Unipol. Ecco, c'è da dire che questo patto, presunto patto occulto, non si è realizzato poi alla fine. E la versione di Nagel è che appunto lui ha intercesso, ha detto di sì, perché Salvatore Ligresti avrebbe minacciato anche il suicidio nel caso non fossero state accolte queste richieste. Queste richieste, chissà se, insomma, se si riferiva al soggiorno in Sardegna. A questo punto, prospettive dell'inchiesta, Angelo? Ma l'inchiesta ha preso una svolta dopo la scoperta di questo bigliettino. C'è una svolta molto importante, perché l'inchiesta era nata da un esposto della Consob su presunte manipolazioni di mercato commesse dai ligresti sul titolo Premafin. Quindi questa è l'origine dell'inchiesta un anno fa. Cosa è successo in questo periodo? Nel frattempo si è aggiunto il fallimento di Imco e Sinergia, che erano le holding di famiglia non quotate dei ligresti. Quindi il procuratore indaga anche per reati di bancarotta, che sono reati molto pesanti e che danno alla procura delle armi enormi per poter entrare anche all'interno di Fondiaria Sai. E dopo la scoperta del biglietto in questione, l'indagine adesso, come dire, va a 360 gradi anche sulla stessa operazione, perché ecco, bisogna sostanzialmente capire se esistono dei patti o altri patti segreti che sono stati nascosti alla Consob. C'è da aggiungere una cosa: oggi tre funzionari della Consob sono stati ricevuti dal procuratore Orsi e hanno presentato un'altra segnalazione sulla quale al momento non si hanno notizie dettagliate. Chiarissimo, Angelo Mincuzzi, vedremo che cosa succederà. Nel frattempo l'agenzia di stampa Radio Core batte la notizia che, secondo fonti del consiglio di amministrazione di Mediobanca, consultate proprio da Radio Core, non è escluso che c'è una riunione del CDA in vista per il 20 settembre, ma non è escluso che il CDA possa essere chiamato in piazzetta Cuccia nei primi 10 giorni di settembre proprio per un'informativa sull'indagine che riguarda l'amministratore delegato Nagel. L'idea di una convocazione sta maturando, scrive Radio Core, in queste ore, e la convocazione potrà arrivare a metà agosto. Questo il quadro per quanto riguarda appunto lo stato dell'indagine sulla vicenda da Premafin Fonsai. Grazie ad Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E noi andiamo quasi a chiudere, abbiamo solo insomma qualche minuto per fare il punto invece sulla vicenda Ilva. È stata una mattinata intensa a Taranto, in migliaia al corteo dei sindacati con la chiusura dello stabilimento Ilva, ma ci sono state anche contestazioni. Saluto Paolo Bricco, collega del Sole 24 Ore, inviato a Taranto. Paolo, buonasera. Buonasera Simone, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, dacci un'idea anche di cronaca della mattinata, poi magari veniamo anche sul resto. Sì, dal punto di vista della cronaca, tra le 15 e le 18.000 persone hanno svolto un corteo pacifico nelle strade della città. Le prime due ore sono state ore di preoccupazione, ma anche di intensa partecipazione. Il problema si è verificato alle 11, quando i cortei sono confluiti in Piazza della Vittoria, in centro, e lì si è consumato un grosso problema, perché una serie di autonomi che sono stati poi identificati come fuoriusciti dalla FIOM, membri dell'area anarchica che ha rapporti con gli ultra del Taranto Calcio, in sostanza si sono impossessati della piazza e hanno impedito il comizio dei sindacati. Alla fine l'unico leader sindacale nazionale che è riuscito a parlare è stata Susanna Camusso, e prima Bonanni e Angeletti hanno tenuto un breve discorso subissato dai fischi e se ne sono andati via. Ecco, al di là del fatto che abbiano parlato più o meno gli uni e gli altri, per il sindacato questo è un grosso problema. Questa era la giornata dei sindacati a Taranto e le cose non sono andate bene. Naturalmente. E tra l'altro noi siamo alla vigilia di una giornata importante, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche ve l'abbiamo accennato, perché domani c'è il riesame, speriamo la decisione entro domani stesso, quantomeno il riesame sul sequestro dello stabilimento, dell'area a caldo dello stabilimento, no Paolo? Sì, domani inizia il riesame, una giornata fondamentale dal punto di vista giudiziario. Il riesame riguarda, come hai giustamente detto tu, parte dello stabilimento, riguarda anche però le 8 persone sottoposte ad arresti domiciliari della famiglia Riva e del dop management. L'impressione è che domani non ci sarà una decisione immediata, domani incomincia un iter che potrebbe nei prossimi 4-5 giorni arrivare a una conclusione. Ma nel frattempo, perché noi abbiamo visto, Paolo, nel frattempo è partito il sequestro, ma nel frattempo sta andando avanti lo spegnimento oppure no? Perché questo non è chiaro. Questo non è chiaro, come dire, da fonti vicine, come dire, non all'azienda, diciamo, ma all'organizzazione industriale, si è appreso che oggi ci sarebbe stata anche una colata. È evidente che le informazioni in città sono frammentarie, deformate, è molto complicato capire che cosa sta capitando. Che cosa c'è di vero, che cosa c'è di falso e quali sono le indiscrezioni. Grazie Paolo Brico, ti devo interrompere perché siamo in chiusura. Grazie come sempre a Mauro Del Corno in redazione, Pietro La Corte in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.